benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Questa puntata si occuperà soprattutto di questioni relative all'antirazzismo e all'antifascismo. Infatti vi racconteremo di quello che è accaduto a Cosenza dopo un sit-in tenuto in seguito ai gravi fatti di Firenze, dove un fascista di Casa Pound ha ucciso alcuni lavoratori senegalesi colpevoli solo di essere neri. Poi vi racconteremo di alcune questioni che riguardano invece Palermo, di uno sgombro di un centro sociale occupato intitolato alla memoria di Vittorio Arrigoni, e ancora parleremo di una studentessa contro la presidenza Nena. Poi vi racconteremo della tradizione sono canzone positiva e a tutti gli abitanti della città di Cosenza, e infine leggeremo un articolo che è relativo alla questione di Vittorio Arrigoni. Sono i familiari chiedono che non venga più la per forza, tuttavia vogliono Teresa processo che abbia molti punti oscuri, e soprattutto vogliono anche vicinanza da parte del governo italiano, vicinanza che di allora si è mai portato soltanto in maniera del progetto della Repubblica. Dunque nulla di concreto. Vedremo dunque cosa succederà per questa vicenda, e ad ogni modo vi auguriamo di ascoltare il programma di radio. Certamente continuate dunque ad ascoltare il programma di funzione di base, continuate a seguire il radio, continuate a gerire e soprattutto partecipate ai progetti di questo network. Lo scorso sabato, mentre tutta Italia, compresa la città Abruzzo, manifestava contro il razzismo scaturito a Firenze nella strage che ha visto la morte di due lavoratori extracomunitari, come dice il mainstream, ecco, ebbene, mentre a Cosenza appunto si era appena conclusa una manifestazione antirazzista, accadeva qualcosa di abbastanza brutto, di molto spiacevole. Leggiamo dunque questo comunicato che è stato pubblicato sul Newswire di Calabria Indie Media e che recita come titolo: razzismo di Stato, razzismo autorizzato. La Cosenza antirazzista, assieme a tanti compagni e fratelli migranti, stamattina, cioè il 18 dicembre scorso, si è dato appuntamento davanti alla prefettura per un partecipato e pacifico presidio antirazzista e antifascista. Non poteva passare nel silenzio la barbara uccisione di Mor e Moudou, che è stata solo l'ultimo e più violento stadio di un lungo processo che ha visto sedimentare un senso comune di razzista in Italia. Tutto questo è avvenuto non solo per l'opera di propaganda di forze dichiaratamente razziste e neonaziste, come Casa Pound, Blocco Studentesco, Alternativa Popolare e Feccia Simile, ma anche grazie agli atteggiamenti giornalieri di piccoli e grandi amministratori delle forze dell'ordine. Tutti ricordano le famose ordinanze sull'onda delle tante emergenze sicurezza contro i pericolosi lavavetri e le campagne di massa contro il pericolo rumeno all'indomani dell'omicidio Reggiani. Ma fa tanta rabbia osservare l'ipocrisia del nostro Stato, che si affanna a bollare come isolato gesto razzista quello commesso dalla feccia fascista fiorentina, mentre poi dà mandato alle proprie forze dell'ordine di attuare una persecuzione giornaliera verso i migranti che risiedono in Italia. Questa persecuzione istituzionalizzata tocca vette intollerabili, come mostra bene l'episodio di stamattina, lo ribadiamo, del 18 dicembre scorso a Cosenza. Dopo il pacifico sit-in, una volante si avvicina a tre compagni, di cui un giovane ghanese di nome Justice. Dopo la solita ingiustificata identificazione, Justice viene portato in questura. Lo portiamo dentro solo a prendere un caffè, dice il poliziotto. In realtà Justice viene trattenuto più di 3 ore e alla fine viene rilasciato con un bel decreto di espulsione. Il semplice fatto che più volanti ronzassero intorno al presidio è già intollerabile, ma che poi la polizia approfitti di un tremendo momento di raccoglimento e dolore per colpire i migranti è veramente incredibile e la dice lunga sulla sincerità del cordoglio istituzionale dinanzi ai fatti di Firenze. Ma dobbiamo riconoscere alla questura cosentina il primato ben poco onorevole di aver usato la giornata internazionale dei diritti del migrante e il sit-in pacifico per un motivo così doloroso, per colpire il nostro fratello Justice compiendo un capolavoro di cinismo e barbaro razzismo. La verità è che l'Italia è uno stato intrinsecamente razzista, dai suoi gangli amministrativi e istituzionali periferici fino ad arrivare ai governi di centrodestra e centrosinistra, autori delle sciagurate leggi turco-napolitane e Bossi-Fini. Ma noi oggi, come sempre, lotteremo al fianco dei nostri fratelli migranti perché non riconosciamo nessuna clandestinità se non quella dei fascisti. E questo comunicato è a firma del CPOA Rialzo. Dunque, vediamo come un ragazzo, un giovane ragazzo che vive a Cosenza, insomma, viene fermato solo perché ha magari partecipato ad una manifestazione antirazzista. Non sappiamo il motivo, fatto sta che comunque è stata decretata la sua espulsione dall'Italia. Comunque, come dicevamo, in tutta Italia si sono verificati momenti di importante raccoglimento e di riflessione a seguito di questa strage. Certamente tutta l'Italia antifascista deve continuare in questa battaglia per i diritti di tutti, diritti che appunto forse come quelle fasciste, neofasciste e affini, insomma, propugnano e propagano in maniera molto pericolosa, come appunto abbiamo visto negli ultimi giorni. Ma parliamo sempre di questioni antifasciste e leggiamo una delle ultime notizie pubblicate, anzi l'ultima in realtà notizia pubblicata ad oggi sul newswire di Indymedia Calabria nella sezione appunto notizie, perché per chi non lo sapesse il nostro newswire è fondamentalmente suddiviso in tre parti. Dunque leggiamo che per quanto riguarda i famosi fatti di Catanzaro dello scorso anno, fatti che Indymedia Calabria ha ampiamente illustrato, ovvero l'accoltellamento di un giovane del centro La Riscossa, di un giovane compagno della Riscossa, ebbene oggi, dopo un anno di lunghe, non sappiamo, indagini, a questo punto ci auguriamo, crediamo, non sappiamo, alcuni ragazzi di Catanzaro, alcuni fascisti, sono stati appunto arrestati. Ora, qui sul newsguard di Media Calabria, insomma, si dice che la Digos della questura di Catanzaro nella mattinata del 21 dicembre ha eseguito l'ordinanza di applicazione di misure cautelari e degli arresti domiciliari emessi dal GIP del Tribunale di Catanzaro nei confronti di alcuni, non leggiamo il nome perché a noi non piace leggere i nomi anche se si tratta di fascisti, ma appunto perché tali, insomma, non vogliamo dare tutta questa importanza a queste persone. Ad ogni modo sono quasi tutti 33enni e sono tutti appunto fascisti, persone di estrema destra che appunto hanno determinato degli scontri nei quali il 30 ottobre scorso vi è stato addirittura questo tentativo di omicidio, insomma questa è l'accusa con la quale i fascisti catanzaresi sono stati arrestati e sono ad oggi ai domiciliari. E dunque la Digos di Catanzaro ha investigato quasi un anno, insomma, e in questo modo ha indicato numerose persone, e tutte queste persone comunque a vario titolo sono state indagate per rissa aggravata, lesioni personali e gravi e tentato omicidio. Una cosa che subito balza agli occhi è sicuramente il notare come effettivamente in questa indagine della Digos di Catanzaro si parli di rissa, ma non si fa riferimento invece a quello che è il motivo un motivo fondante, insomma, di quei fatti del riscossa, ovvero la questione politica, lo scontro, gli scontri nella cosiddetta rissa, il tentativo poi di omicidio ci sono stati, perché appunto si parlava di destra e di sinistra. Ricordiamo che nella città di Catanzaro la destra è veramente molto molto forte, eppure si cerca di minimizzare, si cerca di ridurre tutto a uno scontro tra quasi teppisti, insomma, si fa intendere, non che sia scritto questo, ma non parlando di questioni politiche, la persona qualunque che per caso, diciamo così, si trova a leggere per esempio su un giornale una notizia simile, sicuramente penserà con tutta probabilità che si trattava appunto di persone che sono coinvolte invece in una rissa, diciamo, qualsiasi. Ora continuiamo a leggere altre notizie. Questa notizia, lo ricordo, che abbiamo ascoltato, è stata pubblicata sul Newswire di Indimedia Calabria. E ora invece continuiamo sempre sul Newswire di Indimedia Calabria. Ci sono una serie di notizie che ci riconducono soprattutto alle vicende di Palermo. Infatti a Palermo è stato sgomberato un centro sociale, il Vic Lab. Nell'alba della mattina del 19 dicembre il laboratorio occupato Vittorio Arrigoni è stato sgomberato. E quindi leggiamo la notizia pubblicata, come dicevo, sul Newswire di Indimedia Calabria. Con l'abituale ampio dispiegamento di uomini e mezzi, polizia e carabinieri hanno fatto irruzione in uno spazio che nell'ultimo anno era passato dall'essere luogo di spaccio e consumo di eroina, del tutto precluso agli abitanti del quartiere, a centro vivo e vissuto di innumerevoli attività. Il Vic Club nasce dall'impegno di lavoratori, studenti e precari che nel maggio di quest'anno, a pochi giorni dalla scomparsa di Vittorio, avevano deciso di liberare e rendere fruibili gli spazi dell'ex fabbrica Pensa Bene, un esempio di archeologia industriale metropolitana sita nel quartiere Albergheria, da lungo tempo completamente abbandonata a se stessa. Recuperare i capannoni dello stabilimento affinché potessero diventare spazi finalmente utilizzabili è stato un lavoro lungo e faticoso. Una fatica che in questi pochi mesi di vita è stata però ampiamente ripagata da quanto si è riuscito a realizzare. Un luogo vissuto da bambini della zona che ne frequentavano il doposcuola, attraversato da chi ne ha utilizzato gli spazi per assistere o realizzare rappresentazioni teatrali, oppure da chi negli stessi spazi ha organizzato la propria lotta per una casa o contro il razzismo. Un luogo che ha saputo essere all'interno della metropoli uno spazio liberato dalle logiche di mercato altrove imperanti e una risorsa per gli abitanti del quartiere e non solo. Come sempre, in queste occasioni appare intollerabile che in una città martoriata da mille emergenze sociali l'attenzione di questura e governo cittadino si possa focalizzare su un'esperienza come quella di Vic Club. Un'esperienza che nasce appunto dal basso, capace di strappare al degrado uno spazio abbandonato da più di 10 anni e di farlo diventare punto di riferimento per un quartiere in cui la crisi, disoccupazione e completa assenza di servizi sociali stanno colpendo più duramente che altrove. Un governo della città che svela nitidamente come determinare le logiche siano esclusivamente gli interessi di chi sulla città e sulla vita di chi abita in questa città non fa altro che speculare senza alcuno scrupolo. E quindi vediamo come ancora una volta gli spazi sociali, forse soprattutto nel sud Italia, è una nostra impressione, è abbastanza, diciamo così, messa male. We'll be right back. Ugliness and cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. Palermo, oltre ai problemi lavorativi, per esempio vi informavamo la scorsa puntata che a Palermo molti lavoratori rischiano la cassa integrazione. Oggi invece leggiamo questo articolo pubblicato il 16 dicembre che è intitolato "Facciamoli tutti, corteo ed una tre giorni contro il governo delle banche". Dunque, questa mattina, cioè il 16 dicembre scorso, sabato scorso, un migliaio di studenti delle scuole superiori di Palermo hanno dato vita ad un corteo che da Piazza Massimo, in cui è avvenuto il concentramento, si è diretto attraversando il centro cittadino e quindi il quartiere popolare dell'Albergheria, verso la sede centrale della Regina Margherita, scuola che gli studenti hanno deciso di occupare per una tre giorni di assemblee, dibattiti ed eventi culturali aperti alla città. L'intera iniziativa dal corteo all'occupazione riprende il leitmotiv delle mobilitazioni di questo anno, aggiornandolo all'attuale fase in cui ancora più chiaramente appare come le responsabilità della crisi siano sistemiche e non individuali. L'intera casta dei politici, banchieri ed affaristi di tutte le risme ha generato lo stato di crisi attuale e ne ha le piene responsabilità. A sottolineare la trasversalità della responsabilità della crisi durante il corteo sono state bruciate bandiere dei due principali partiti politici del paese, entrambi strumenti della macchina governativa dispiegata a protezione degli interessi di pochi privilegiati, ed entrambi d'accordo, come si evidenzia nelle vicende del governo Monti, nelle linee fondamentali di gestione, in nome dell'austerity e dei sacrifici per chi lavora nella crisi. Momenti di tensione alla fine del corteo, quando un cordone di carabinieri, in tenuta antisommossa, ha tentato di impedire l'ingresso nella scuola già occupata dagli studenti. Oltre al corteo, come già detto, gli studenti hanno preparato una tre giorni di iniziative che si terranno a Regina Margherita occupato, nel programma diverse assemblee cittadine, proiezioni, mostre fotografiche e dibattiti, un calendario dunque affollato di iniziative, tutte quanto mai necessarie, che mostrano come all'inasprirsi della crisi il tessuto studentesco sappia rispondere in una sola maniera, cioè organizzandosi e costruendo lotte. Quindi vediamo come Palermo sia in questi giorni una città veramente molto viva di diverse mobilitazioni. Infine vogliamo, sempre a proposito di mobilitazioni, vogliamo ricordarvi una mobilitazione che ha visto la città di Cosenza ieri invasa dal nascente sportello di San Precario. Finalmente San Precario appare anche a Cosenza e lo fa in una maniera abbastanza insolita e ha augurato anche un particolare Babbo Natale, il Buon Natale, il Natale dei precari a tutti i cittadini della città Abruzia. E quindi il corteo dei precari di Cosenza si è mosso lungo il corso principale della città. Il Babbo Natale distribuiva i doni del governo Monti, cioè aumento dell'IVA, maggiore precarizzazione, assenza di maggiore di diritti, aumento dell'IVA, pressione fiscale raddoppiata e via dicendo. E alla fine il precari, hanno augurato a tutta la città un buon Natale Monti attraverso un canto popolare della città, la Strina, che è stato comunque appositamente rivisitato. E vi informeremo dunque nei prossimi giorni anche di quelle che saranno le prossime iniziative, speriamo, che questo nascente sportello di San Precario a Cosenza vorrà intraprendere. Noi vi salutiamo, come ultima notizia vi ricordiamo che comunque i familiari di Vincenzo Arrigoni, e che abbiamo già citato a proposito dello sgombero del laboratorio occupato intitolato proprio alla memoria di Vittorio Arrigoni, c'è questo appello che invece è stato pubblicato sul giornale di Media Italia ed è intitolato come notizia: non uccidete gli assassini di Vittorio Arrigoni e la famiglia, dunque contro la pena di morte, vogliamo giustizia, non vendetta. E infatti il titolo, diciamo, si commenta bene da sé. Questa notizia è stata pubblicata il 21 dicembre scorso e ne diamo lettura. Probabilmente comunque si tratta di un repost, non fosse altro perché questo articolo che in genere non vengono firmati, insomma, invece firmato. Comunque lo leggiamo egualmente. Arrigoni, la famiglia contro la pena di morte, vogliamo giustizia, non una vendetta. Verità e giustizia, non vendetta. 8 mesi del rapimento e dell'uccisione nella striscia di Gaza di Vittorio Arrigoni, la famiglia chiede pubblicamente che in caso di condanna dei presunti assassini non venga applicata la pena di morte, un processo con l'incosta a Gaza che non sta dicendo la verità, dice il legale della famiglia Gilberto Pagani, e che sta avvenendo nel totale disinteresse delle istituzioni italiane. In una lettera resa pubblica dal palestinese Central for Human Rights, la madre e la sorella di Arrigoni, il padre è recentemente scomparso, hanno risposto ai familiari di 3 imputati che in una precedente lettera avevano espresso rammarico per l'uccisione di Vittorio, chiedendo il perdono dei propri cari. Processo equo. Vogliamo che un processo equo, in base ai requisiti del diritto internazionale, al fine di rivelare le circostanze del delitto e perché giustizia sia fatta, scrive la famiglia Arrigoni. In ogni caso, se la Corte riterrà colpevoli gli accusati, vorremmo che fosse chiaro che siamo contrari all'applicazione della pena di morte. Speriamo che il nostro gesto, conclude la lettera, possa aiutare a trovare la via della pace e della fratellanza, l'obiettivo per il quale Vittorio si è sempre battuto in tutta la sua vita. Sono 2 in particolare gli interrogativi sollevati dalla famiglia Arrigoni, finora rimasti senza risposta. Perché rapire proprio Vittorio e perché ucciderlo prima dell'ultimatum lanciato dagli stessi rapitori? Ma nelle 10 udienze tenute presso la Corte Militare di Gaza, 3 degli imputati appartenenti a una presunta cellula salafita facevano parte del servizio di sicurezza di Hamas, i punti non sono stati ancora toccati, i punti oscuri. Siamo in una fase di stallo, afferma Pagani. Tra continui rinvii procedurali, testimoni che non si presentano e punti oscuri nella ricostruzione della vicenda, non si sta tentando di individuare la verità, ma si punta alla punizione di qualcuno, probabilmente perché ci sono complicità nell'apparato statale che non si interessa a rivelare, ma a dimostrare totale interesse, secondo Pagani, sarebbero state finora anche le istituzioni italiane. E totale disinteresse, sicuramente sarà un errore di battitura. Ad eccezione del messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica, non è stato fatto nulla per sostenere i familiari nella ricerca della verità e per dare loro pieno appoggio, venendo meno ad un preciso obbligo giuridico. Capisco che la situazione sia complicata, essendoci di mezzo anche un governo, Hamas, considerato dal nostro precedente esecutivo un'organizzazione terroristica, ma ciò non significa che non si debba contribuire a far luce sull'omicidio di un nostro connazionale all'estero. Il governo rispetti i suoi doveri. Pochi giorni fa il legale della famiglia Arrigoni ha rinviato al Presidente della Repubblica e al Ministro della Giustizia e degli Esteri una richiesta formale di intervento nella speranza che il nuovo governo rispetti i propri doveri istituzionali. E sempre nei giorni scorsi la famiglia Arrigoni ha deciso di ridare vita al blog di Vittorio, Guerriglia Radio, ioblogo.com, perché continua a dar voce ai testimoni di tutte le ingiustizie e delle negazioni dei diritti umani, ovunque esse si manifestino. E questa notizia è pubblicata con la data del 21 dicembre 2011. Bene, con questa informazione è davvero tutto. Siamo sicuri che molti di voi non ci avranno ascoltato in diretta e ci auguriamo di poter andare in onda domani sera, cioè sabato 24 alle ore 20. un orario nel quale sicuramente molti di voi non saranno online, ma siccome noi non siamo cattolici e siamo per l'abolizione delle feste natalizie in favore delle feste invernali, non ce ne frega tutti tanto, quindi andremo lo stesso in onda malgrado i nostri continui e ripetuti problemi tecnici. Quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, continuate a seguire Indie Radio, continuate ad ascoltare le magiche transizioni di fase e la web radio indipendente, sulla quale potete ascoltare solo ed esclusivamente programmi di qualità. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. County personality. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I'm all lost. I'm all lost.